Italia in controluce. Inizia la nuova settimana di Italia in controluce, il quotidiano di Radio 24 in due edizioni sulla cronaca italiana. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. La prima pista che oggi segue Italia in controluce riguarda le presunte infiltrazioni delle cosche, in particolare dell''Ndrangheta, nel sindacato e in particolare in Piemonte, ad Asti. È una pista che abbiamo già seguito da tempo, quando ci fu un arresto tempo fa in Calabria. Il reportage di Monica Ceravolo. Il primo ad accendere i riflettori su Asti, l''Ndrangheta e a sorpresa alcuni sindacalisti è stato il presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello. Da tempo porta avanti una battaglia di legalità all'interno dell'associazione degli industriali e conosce bene il modus operandi delle cosche. La mafia si evolve e quindi i metodi di infiltrazione mutano nel tempo e abbiamo diversi casi in cui sono proprio i lavoratori infiltrati dalla mafia, dall''Ndrangheta, dalla camorra ad essere delle teste di ponte, insomma, che danno informazioni sulle aziende o in qualche modo poi contribuiscono a taglieggiarle. Io credo che occorra una forte vigilanza su questo tema, non solo nel Mezzogiorno ma anche nel resto del paese. Noi abbiamo avuto evidenze di questo tipo, per esempio nel Piemonte, nella zona di Asti. Un altro allarme e una conferma arrivano dalla stampa. A intervenire è il rappresentante di un'associazione di consumatori di Asti. È una denuncia appello, troppe le aziende che lasciano la sua città da tempo, aziende di ogni dimensione, e aggiunge: ad aggravare questa situazione c'è qualche singolo disturbo sindacale. Torna Asti, torna il sindacato. Ci incuriosiamo e scopriamo che in un recente passato Asti è stata teatro di un grosso scandalo. Un sindacalista, Fausto Cavallo, è stato arrestato per aver intascato tangenti. Viene inchiodato dopo che un imprenditore vuota il sacco e si autoaccusa di aver dato soldi all'ex segretario provinciale della CGIL per favorire le relazioni aziendali nella sua impresa, la Trasplastom, e per non subire intralci. Dice di aver dato a Cavallo 40.000 euro e di essere subito dopo riuscito a mettere in mobilità 50 dipendenti, in cassa integrazione altri 30 e aver dato il via all'esternalizzazione dei servizi. Succedeva prima che la crisi attanagliasse il paese. La procura astigiana avrebbe documentato 4 tangenti intascate da Cavallo per un totale di 260.000 euro. Tutti i soldi che restavano nelle tasche del sindacalista? La CGIL sospende Cavallo, rinnova i vertici locali, ma poco dopo le riazzera. Guardiamo la realtà di Asti e ci accorgiamo che è vero. Molte aziende lasciano quel territorio, un'emorragia che inizia prima della crisi. Se ne vanno alcune tra le realtà più grandi, come la Trust, l'Ages, la Paventa, la Bar, la Morando, per citarne alcune. C'è una cosa che collega il punto da cui siamo partiti a quello in cui siamo arrivati. È un capitolo dell'inchiesta che ha, fra le altre cose, rivelato gli interessi dell''Ndrangheta fuori dal territorio di origine. C'è un capitolo, dicevamo, che incuriosisce perché riguarda proprio Asti, non una grande città del nord Italia come Milano, di cui si è ampiamente parlato, ma una cittadina che conta poco più di 75.000 abitanti. Negli atti si legge che ad Asti c'è un'articolazione dell'organizzazione criminale che si vuole affrancare dal controllo esercitato dalla struttura vicina, che si chiama società, e vuole crearne un'autonoma che risponda direttamente alla Calabria. A questo scopo viene presentata una precisa istanza alla casa madre. Per far ciò, però, secondo le regole dell'organizzazione, è necessario che vi siano almeno 49 affiliati. Se ne deduce che ad Asti ci sono almeno 49 ndranghetisti inserite nella compagine criminale che rispondono alle famiglie calabresi. Questa vicenda pone più domande che risposte. Una di queste è: cosa fanno questi ndranghetisti in una cittadina piccola, sì, ma piuttosto industrializzata come Asti? Stanno con le mani in mano o tentano, come dimostrato altrove, di infiltrarsi nel tessuto economico locale? I riflettori su Asti si riaccendono quando lo scorso 2 ottobre viene arrestato a Reggio Calabria Antonio Barilla. È un dirigente sindacale di Trenitalia S.p.A. accusato di aver intascato tangenti per non denunciare false violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A versare i tangenti, almeno 1.800 euro al mese, sarebbero stati i vertici del consorzio milanese Calos, da cui dipende la cooperativa New Labor, incaricata della pulizia sui treni alla stazione di Reggio. Ma c'è di più. I magistrati che si occupano dell'inchiesta calabrese, tra cui il procuratore capo Giuseppe Pignatore, hanno scoperto un altro fatto, altre tangenti, per cifre non inferiori a 20.000 euro ciascuna. Ne sarebbero state documentate 5. Questo denaro, almeno 100.000 euro, sarebbe partito dalla sede milanese della Calos, arrivato a Reggio Calabria, per finire nelle casse della cosca dell''Ndrangheta dei Tegano. E questo è un altro fatto nuovo. Pochi giorni dopo, il procuratore Pignatone, ai microfoni di Radio 24, ammette: c'è un nuovo collaboratore di giustizia, starebbe svelando in retroscena delle tangenti versate alle cosche. C'è una sua dichiarazione che conferma che il problema travalica i confini calabresi. Tra i mafiosi e il sindacalista c'è una specie di gioco di sponda che viene fuori, ed è la cosa secondo me ancora più inquietante, veramente grave, proprio in occasione dei momenti di crisi. Questo fatto che venissero preparate le buste di denaro, ovviamente in nero, anche per Bari e per Roma, indica già una sistematicità di condotta al di fuori del contesto calabrese. Peraltro, ed è anch'essa una cosa molto importante, uno degli arrestati, uno dei mafiosi, usiamo questo termine per capirci, ha deciso di collaborare. Italia in controluce. La seconda traccia è dedicata a Casale Monferrato, al processo per le morti causate dall'esposizione di lavoratori cittadini alle polveri di amianto. Il racconto di Sabrina Pisu. Mio marito aveva lavorato 18 anni dentro all'Eternit. Quando è entrato in pensione, per regalo ha avuto la malattia. Immediatamente ha capito che il suo era un mesotelioma, perché non era l'unico. È stato molto doloroso e mi ha fatto molto arrabbiare, perché non si deve morire di lavoro. Era il 1982 quando si ammala il marito di Romana Blasotti, che a causa dell'amianto ha perso anche una figlia, una sorella e un nipote. Mia figlia era caduta, aveva un dolore alla schiena. Ha voluto farsi vedere perché pensava di avere una inclinazione a una vertebra. Quando le hanno posato sul muro le sue lastre, ha visto che le sue lastre erano uguali a quelle del suo papà. Lei in 5 mesi se n'è andata, mio marito ci ha messo 15 mesi, mia sorella ne ha messi 16, suo figlio ne ha messo qualche cosa di più. E questa è la grande tragedia di Casale, e non solo di Casale, per l'amianto. Il colosso svizzero Eternit produceva prodotti in cemento amianto per l'edilizia ed è arrivato a Casale Monferrato nel 1906 per restarci fino al 1986. Una terra agricola si trasforma in un polo industriale. Dalla fabbrica maledetta, come la chiamano tutti, le tute blu degli operai all'uscita erano bianche. L'amianto qui ha ucciso 1400 persone, ma i numeri nascondono le storie, come quella di Romana Blasotti, che ha 81 anni e come presidente dell'associazione familiari vittime amianto continua a combattere. Sono 30 anni che noi lottiamo. Io sono ancora positiva, non negativa. Io ci andrò ancora avanti finché posso. So quanto ci è costato e continua a costarci, ma io ho anche la convinzione che noi avremo giustizia. L'esposizione alle fibre aerodisperse di questa sostanza provoca diverse patologie tumorali. Una correlazione nota da tempo, spiega il dottor Mario Botta, primario dell'oncologia medica dell'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. È dagli anni 50 che vi sono studi che hanno dimostrato un aumento di incidenza di tumori della pleura e di tumori del polmone nelle industrie in cui veniva manipolato e veniva usato amianto. Ad ammalarsi è sempre di più sono gli abitanti. Oggi l'85% dei pazienti che noi vediamo sono comunissimi cittadini di Casale, che non hanno avuto nessuna esperienza lavorativa con l'amianto, ma hanno il drammatico torto di essere nati, cresciuti e vissuti in questa zona. Nell'aprile 2009 si è aperto alla Pala Giustizia di Torino il processo a carico degli ex vertici della multinazionale Eternit, lo svizzero Stefan Smidani e il belga Jean-Louis Descartier de Marchen, consapevoli della nocività dell'amianto, denuncia Bruno Pesce, coordinatore del comitato Vertenza Amianto. La politica era quella di continuamente negare la nocività fino a quando hanno potuto. Fornivano ai dirigenti locali degli stabilimenti dei veri e propri vademecum, in base ai quali dovevano rispondere alle domande dei giornalisti o del sindacato, dovevano rispondere che non era vero, dovevano tranquillizzare, dovevano negare. A settembre è ripartito a Torino il maxi processo che dovrà far luce sulla morte di 3.000 persone nei 4 stabilimenti italiani della multinazionale Eternit. Un'inchiesta storica coordinata da Raffaele Guariniello, sostituto procuratore del Tribunale di Torino. È un processo molto importante perché riguarda una multinazionale che ha avuto stabilimenti un po' dappertutto nel mondo. Sono sorti problemi di tutela della salute non solo dei lavoratori, ma anche di salute dei cittadini. Muoiono ogni anno nella sola zona di Casale Monferrato 50 persone nuove per mesotelioma. Questo è un fenomeno che andrà avanti ancora per anni e anni. Quello che noi abbiamo contestato come disastro, un disastro all'interno dello stabilimento e un disastro all'esterno dello stabilimento. Al vaglio del tribunale la posizione detenzione dei due imputati accusati di disastro doloso ambientale e inosservanza volontaria delle norme sulla sicurezza. Stiamo portando tutta una serie di elementi che a nostro giudizio dimostrano proprio questo fatto. Documenti in cui c'è un'indicazione, secondo noi, volta a non far venire fuori questa pericolosità. Quello di Torino è il processo più grande in Europa per le morti bianche. I familiari delle vittime di amianto non perdono una data. Arrivano con i pullman da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera e dalla Francia. Con la stessa forza e fiducia di Romana Blasotti, aspettano che sia fatta giustizia. La seconda edizione di Italia in Controluce, le puntate su radio24.it, Radio 24 Italia in Controluce, il gruppo su Facebook, in Controluce, quello su Twitter, la mail controluceradio24.it. Torniamo domani alle 6.30, naturalmente su Radio 24.